Focus Economia. Con Simone Spezia. Ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. 349-238-6666 è il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp, ed è là che ci potete trovare. Oggi sarete con me, domani torna Sebastiano Barisoni. Di che cosa parleremo oggi? Allora, avevamo lasciato in sospeso nella giornata di venerdì un po' per tutta la serie di fatti che sono avvenuti, a partire da quel che è accaduto a Stoccolma, a quello che è accaduto nella notte tra giovedì e venerdì con il bombardamento di una base militare da parte degli Stati Uniti con i missili, e un po' perché poi la notizia è anche arrivata tardi. Avevamo lasciato in sospeso la vicenda di Uber, questa decisione del Tribunale di Roma che ha fatto sì e costringere l'azienda, salvo che appunto non arrivi il ricorso e questo ricorso non venga vinto, dovrebbe costringere l'azienda a spegnere tutto entro 10 giorni. Spegnere tutto, che cosa vuol dire? Vuol dire che non funzionerà non solo più Uber Pop, che era quella parte dell'applicazione già in realtà messa fuori legge che consentiva a chiunque in sostanza di fare in piccolo il tassista tramite l'app, ma si spegne anche Uber Black, che è la versione con le auto a noleggio con conducente. È una sentenza molto pesante. Il tribunale ha dichiarato che appunto è stata violata la concorrenza in più punti ed è stata anche violata la legge in più punti. È prevedibile appunto che l'azienda faccia ricorso, e ne andremo a parlare con un rappresentante dei tassisti, perché quello che vogliamo capire a questo punto è che cosa intendano loro anche per innovazione, insomma, molto semplicemente, cioè come si possono cambiare le cose in questo paese, soprattutto su questo fronte dal punto di vista del trasporto. Ci occuperemo di mercati. Oggi la giornata è una giornata negativa, con un meno 0,6% per il FTSE MIB, un mezzo punto percentuale di calo per il FTSE OCHER, Parigi che cede lo 0,48%, Francoforte lo 0,11%, Londra in lieve guadagno dello 0,01%, con in cima al listino oggi Banca Generali che guadagna l'1,21%, Moncler lo 0,84%, Fineco Bank lo 0,79%, Exor lo 0,71%, in fondo al listino Mediobanca che c'è del 2,5%, Enel perde l'1,5%, CNH l'1,5%, così come Banca Popolare Emilia Romagna. Ci occuperemo di mercati e faremo il punto con i colleghi di Radio Cori, il Sole 24 Ore, ma ci occuperemo anche di un singolo titolo, o meglio di una singola azienda, che è Avio, che sbarca oggi in borsa. Che cosa fa Avio? Fa sostanzialmente vettori per il lancio dei razzi nello spazio. È un'eccellenza italiana, perché sono pochi ad avere questa tecnologia nel pianeta, sono sostanzialmente 6 paesi, e cercheremo di farci raccontare dall'amministratore delegato che cosa vede in prospettiva, tanto per la sua azienda, che oggi ha fatto un esordio ottimo in borsa, un ottimo esordio sul mercato, quanto un po' come vede quello che sta diventando un mercato nel quale iniziano ad entrare i privati. La vicenda di Elon Musk, di Tesla con la sua SpaceX da una parte, di Jeff Bezos un po' più in piccolo, no? Amazon dall'altra, come dire, ce lo illustra e ce lo insegna, cioè questo sogno dello spazio che riparte anche dai privati. Naturalmente ci concentreremo anche su quello che è il business di questa azienda. A proposito di Elon Musk, ci arriveremo tra un attimo con i 100 secondi di Radio 24 e Sole 24 Ore, quelli in collaborazione con RDS. La notizia delle ultime ore è che Tesla, l'azienda di auto di Elon Musk, ha superato General Motors in termini di capitalizzazione di borsa. Questo è una cosa che colpisce molto, perché, per darvi un'idea, l'anno scorso Tesla ha venduto 84.000 auto contro gli oltre 10 milioni di auto vendute a General Motors e ha perso $700,000, se non erro, più o meno le cifre sono queste. Quindi, insomma, stiamo parlando di un segnale particolare e sentiremo anche Alessandro Plateroti che cosa ha da dirci nei 100 secondi di Radio 24, il Sole 24. E poi ci occuperemo di quello che è un grande ostacolo all'investimento in questo paese, più di molti altri, ed è quello della giustizia. Oggi sono stati diffusi dei dati che riguardano appunto la giustizia italiana, la giustizia civile italiana rapportata a quella degli altri paesi europei, e siamo quartultimi in Europa per velocità dei processi civili, una media di oltre 380 giorni, calata pochissimo tra il 2010 e il 2015, anno dell'ultima rilevazione, almeno di questa rilevazione, e ancora peggio va per la giustizia amministrativa, perché parliamo di una media di 1000 giorni. Questi i temi di oggi. È sempre il 349-238-6666 il numero per gli sms, per i messaggi su WhatsApp. Le notizie in breve di oggi. No, lo dico all'ascoltatore che molto carinamente chiede se devo recuperare i 2 giorni di assenza perché giovedì e venerdì effetto giorno è stato condotto da Anna Migliorati. No, no, in realtà no. Allora, l'oro in calo dello 0,3% a $1,250 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio invece abbiamo una risalita, il WTI con consegna a maggio, il contratto a maggio più 1,23% a $52,8 al barile, il Brent, il petrolio quotato a Londra, in risalita dell'1% a $55,8 al barile. A proposito di petrolio e di energia, ieri e oggi a Roma, in contemporanea al G7 dei ministri degli esteri che si sta svolgendo a Lucca, si sta svolgendo il G7 Energia, che si è concluso senza una dichiarazione congiunta da parte dei ministri dei 7 paesi. Lo ha annunciato il ministro dello sviluppo Carlo Calenda, spiegando che non è stato possibile firmare una dichiarazione congiunta su tutti i punti dal momento che l'amministrazione americana si trova in un processo di revisione della politica energetica, in particolare sul tema del climate change e dell'accordo di Parigi. Quindi Trump sta sostanzialmente dando seguito a quelle che erano state le sue indicazioni in campagna elettorale in merito appunto al cambiamento climatico e alle politiche energetiche. Oh, e visto che siamo sui temi del cambiamento climatico, di nuovi modelli di utilizzo dell'energia, andiamo proprio a parlare di Tesla. La notizia ve l'ho data pochi istanti fa, ha superato in capitalizzazione di borsa General Motors. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24 del Sole 24 Ore, in collaborazione con RDS, il vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Plateroti. Alla fine il sorpasso è avvenuto. Qualche settimana fa la Tesla, la famosa casa di Elon Musk che produce automobili elettriche ad alta velocità, dopo aver sorpassato la Ford, ha sorpassato anche la General Motors. Ufficialmente, da questo momento, la Tesla è la casa automobilistica americana con il più alto valore al mondo. Stiamo parlando di circa 1,7 miliardi in più sul valore della General Motors, che già era un valore alto, e soprattutto se stiamo parlando di una casa che in realtà produce, se no, un terzo delle automobili della General Motors. Misteri della borsa, ma soprattutto misteri di un successo che affonda le sue radici nella voglia di innovazione, nella voglia di novità e soprattutto verso quel mondo fatto di automobili a guida automatica, elettriche, che non consumano, che non hanno impatto ambientale, ma che ci creano tanti punti interrogativi su quello che sarà non soltanto il futuro del trasporto, il futuro dell'automobile così come la conosciamo, ma soprattutto il futuro di una società che è sempre più divisa tra necessità ambientali e necessità della borsa. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. C'è qualcuno di voi che ci scrive a proposito di questo? Devo dire, molti vedono una bolla in Tesla, no? Sono addirittura due persone che ci ricordano quando Tiscali valeva più di Fiat. Vedremo come andranno le cose, insomma, se le prospettive di Tesla sono quelle che veramente vede il mercato oppure no. Di certo, mettiamola così, quel periodo storico ci ha insegnato a prestare una certa attenzione alle aziende di questo tipo. Allora, abbiamo un po' di indicazioni che arrivano dal Fondo Monetario, Banca Mondiale e WTO, ossia l'Organizzazione Mondiale del Commercio, che dichiarano che il ruolo degli scambi commerciali in un momento cruciale e si schierano contro il protezionismo. L'integrazione commerciale, dice il direttore generale del Fondo Monetario Christine Lagarde, è un potente strumento per accelerare la ripresa e migliorare gli standard di vita. È stato un motore di crescita della crescita globale. Aggiunge il Fondo Monetario Internazionale in uno dei capitoli analitici del World Economic Outlook, che dice l'innovazione e la globalizzazione tagliano la quota, l'innovazione tecnologica e la globalizzazione sono di gran lunga le principali cause della perdita di reddito da lavoro rispetto al totale, specialmente in paesi come Italia e Germania. È interessante che il Fondo Monetario si concentri su questo. Il fatto più rilevante di questa affermazione, forse nella fonte da cui arriva, appunto, non un partito politico, ma proprio il Fondo Monetario Internazionale, è il rapporto semestrale sull'economia planetaria. Si raccomandano misure tarate paese per paese per garantire che i loro benefici siano meglio distribuiti e generalizzati. Abbiamo le parole del presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, che dice nel 2016 la crescita dell'Eurozona è ai massimi dall'inizio della crisi. Un anno, il 2016, iniziato nell'incertezza economica, ma si è concluso con l'economia ai livelli più forti dalla crisi del 2008-2009. Sappiamo che non è il caso dell'Italia, quindi è inutile che ce lo scriviate. Draghi parla dell'Eurozona in genere. Per quanto riguarda l'Italia, abbiamo i dati sulla produzione industriale in febbraio, un più 1% sul mese, un più 1,9% sull'anno. Secondo quello che riferisce l'Istat, sono in espansione congiunturale i beni strumentali e quelli intermedi. E abbiamo anche le previsioni del Centro Studi di Confindustria, il quale indica che dopo il più 1% di febbraio, in marzo si dovrebbe registrare un calo dello 0,4%. Per quanto riguarda sempre l'Italia, abbiamo il Consiglio dei Ministri che domani approverà con ogni probabilità il DEF, il documento di economia e finanza, accompagnato dal programma nazionale di riforme, mentre a quanto pare potrebbe slittare di qualche giorno il varo della manovrina da 3,4 miliardi di euro. Su questa manovrina restano alcuni nodi da sciogliere. È spuntata nelle ultime ore anche l'ipotesi del recupero IVA, cioè dell'utilizzo, se Bruxelles darà il via libera, di una minima parte dell'extragettito IVA del 2016, anno record per il fisco, con un boom di entrate dalla lotta all'evasione per 19 miliardi di euro. Mi misura che potrebbe valere 1 miliardo. Le misure di aggiustamento non sono state ancora definite nel dettaglio ed è per questo che sarà ritardata l'approvazione della manovrina. Ne parla anche il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, dice ci saranno misure per la decontribuzione del lavoro, anche se lavoriamo con una coperta molto corta, appunto una manovra da 3 miliardi e mezzo. A chiudere, andiamo su qualche settore industriale, a partire da quello della nautica. È stato presentato a Genova oggi il 57esimo Salone Nautico organizzato da Ucina, in programma a Genova dal 21 al 26 settembre, in una giornata che è stata particolare per tutto il mondo della nautica, perché è la giornata della scomparsa nella sua casa di Sarnico, nella Bergamasca, dell'ingegner Carlo Riva, che è stato un pioniere della nautica mondiale, patron della società di costruzione dei famosi motoscafi di lusso, i Riva. Li conoscete, aveva 95 anni, ne parla Alberto Galassi, amministratore delegato di Ferretti, lo ricorda, dice ci ha lasciato il più grande di tutti, il mondo perde un geniale creatore di barche, un maestro di stile, un gigante della storia industriale e imprenditoriale della nostra Italia. Una giornata particolare è per un settore che fattura circa 3 miliardi, nel 2007 lo ricordiamo il fatturato superava i 6 miliardi, Sull'andamento del settore al momento Andrea Ferro ha parlato con Carla De Maria, presidente di Ucina, la Confindustria Nautica. Sentiamo. Direi quelli che erano timidi segnali nel 2015 temevamo che fossero proprio solo segnali non costanti, anche perché uscivamo da una crisi terribile lunghissima, sono assolutamente consolidati. Nel 2016 consolideremo un 13% sul 2015 e il 2017 è ben avviato. Non so se sarà ancora a doppia cifra, comunque dopo 2 anni, ma potrebbe ancora essere a doppia cifra. Comunque una crescita robusta. Come la spieghiamo? C'è stata una compressione per oltre 7 anni del mercato e non appena ci sono le condizioni economiche, perché di fatto occorre che ci sia il contesto giusto, che migliorano, si sono liberate questa volontà di tornare ad andare per mare, ad acquistare imbarcazioni, ed è una ripresa che vediamo non solo nel nostro settore, così robusta come la nostra, non in altri settori, però insomma la ripresa economica dal 2015 c'è stata. Anche culturalmente politicamente è cambiato un po' l'approccio con chi va per mare? Questa è una certezza e se ci riferiamo al nostro mercato interno assolutamente sì, abbiamo vissuto periodi in cui la nautica era vista come una qualcosa molto elitaria e solo per pochi ultraricchi, abbiamo provato che non è così, noi siamo un comparto con oltre 180.000 addetti, siamo industria vera che dà il suo apporto e da 3 anni ritorna a dare un apporto più significativo al PIL e nel sistema Italia direi di grande contributo. E sul prossimo salone che si aprirà a settembre sentiamo Alessandro Campagna, direttore commerciale del salone, sempre al microfono di Andrea Ferro. Siamo fierissimi di essere generalisti. La grande forza di Genova è quella di rappresentare diversi settori nello stesso modo, ovvero con ampissima gamma rappresentata e tantissima trasversalità di prodotto. Ci sarà un problema di spazi? Ma ben venga, i problemi di spazi sono gli unici problemi che voglio avere nella mia vita e sono veramente felice di averli. Sicuramente, come dire, abbiamo lavorato negli ultimi anni in termini di geografia, di identità, ora dovremo capire come espandere. Spieghiamo perché problemi di spazi. Perché le richieste allo stato attuale sono già superiori alla disponibilità di spazi espositivi, semplice. Che salone sarà quindi? Ma io credo che sarà un salone estremamente bello, non lo sarà solamente perché il salone sta lavorando e sta cercando di progettare al meglio gli spazi espositivi, ma perché effettivamente il mercato sta tornando a essere estremamente vivace. Genova è sempre stato un punto di riferimento, non è mai stato cancellato, ha solo alle volte subito le negatività di un momento di mercato difficile, ora sta ritornando a essere il valore centrale che deve essere. E a chiudere questa prima parte con le notizie in breve, anche l'altro settore industriale del quale si parla in queste ore è quello del vino, perché è partita domenica la 51esima edizione di Vinitaly, è partita ieri, è il salone di riferimento per il settore in Fiera Verona fino al 12 di aprile, un più 4% per gli espositori, 50.000 gli operatori esteri attesi, 1.660 i buyer già accreditati. Domani poi con Sebastiano Barisoni sentiremo anche qualche voce dei produttori, come stanno vivendo questa fase. Oggi è stata presentata una ricerca con dei dati interessanti per quanto riguarda anche la grande distribuzione. Quello della grande distribuzione si conferma il canale di vendita più grande nel mercato del vino, mezzo con 505 milioni di litri venduti nel 2016, un mercato che gode di una buona salute, come testimoniano anche appunto le vendite nei supermercati. I vini a denominazione d'origine aumentano del 2,7% in volume e del 4,4% in valore. Virgilio Romano, Client Solution Director di IRI, che ha svolto la ricerca sul vino nella grande distribuzione per Vinitaly, intervistato da Daniele Zinni. Quello che noi notiamo quest'anno, come conferma anche di quello che è accaduto negli ultimi anni, è la ricerca di vini nuovi, di regioni nuove, di denominazioni nuove, e quindi anche quest'anno andiamo a cogliere gli emergenti nel mondo delle piccole denominazioni, Ribolla Gialla, le conferme come la Passerina e il vino Pecorino. Ricordiamoci che siamo sempre in una fascia, che nella fascia medio-bassa che si concentrano la gran parte delle vendite, quella sotto i 3 euro, però sempre più si cerca vini diversi, e devo dire negli ultimi due anni sempre più anche spumanti, soprattutto i secchi, che ormai sono usciti dalla tipica stagionalità natalizia e pasquale per essere consumati anche nei restanti mesi dell'anno, sia all'aperitivo che nel momento del pasto. E per quello che riguarda i formati dei vini? Formati dei vini, ci concentriamo sempre più sulla bottiglia da 75, e l'alternativa grande a questo formato resta il Brick, che anche se in sofferenza rispetto all'anno precedente, però possiamo tranquillamente dire che è il formato alternativo alla bottiglia da 75. Tutti gli altri tendono a perdere vendite anno dopo anno. C'è forte variazione tra nord, centro, sud per quello che riguarda i consumi di vino? Come sempre, e come già notato negli anni scorsi, c'è molto legame con la propria regione, per cui se andiamo in Sicilia troviamo tanto Nero d'Avola, se andiamo in Campania troviamo il Solopaca, se andiamo in Emilia Romagna il Lambrusco e così via. Poi ci sono ovviamente delle tipologie che troviamo dappertutto. Il Lambrusco magari non sarà il primo, però lo troviamo in alto un po' in tutte le regioni. E dunque veniamo al primo tema di giornata, che è quello della sentenza arrivata dal Tribunale di Roma su Uber, ed è quindi il tema di Uber e dei taxi. Ci arriveremo tra un attimo, perché sono già tanti i vostri messaggi su questo tema. Come si diceva, la sentenza è di venerdì, si attende a breve quello che dovrebbe essere il ricorso di Uber. Intanto io voglio salutare Loreno Bittarelli, che è il presidente dell'URI, l'Unione Italiana Radio Taxi, che è la principale organizzazione del settore. Bittarelli, buonasera e bentornato ai nostri microfoni. La devo però far attendere un attimo, andiamo in pausa, andiamo a sentire il meteo, ci ritroviamo subito dopo e ne parliamo un po'. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia per questa parte di Focus Economia, che iniziamo dunque dedicando alla vicenda Uber. Non prima di un paio di risposte, innanzitutto ad un ascoltatore che chiede, dice: ma non ho capito, aumenta la disoccupazione, la crisi persiste e la nautica di lusso vola? Sì, perché la crisi persiste qua in Italia, per quanto qualche piccolo segnale di ripresa si vede, non ovviamente quanto vorremmo, la crisi persiste qua e noi abbiamo la grande fortuna di avere una nautica che a livello mondiale è riconosciuta tra le grandi eccellenze italiane e quindi vendono prevalentemente all'estero, come ovvio. E poi qualche segnale in più è arrivato dal mercato italiano dopo che è finita, come dire, l'era Monti e questa sorta di colpa che ricadeva sui proprietari di barche che erano costretti a pagare delle tasse molto molto elevate. Sulla vicenda di Tesla invece ci scrive qualcun altro, dato che prima si paragonava, oggi la notizia di oggi, lo dico perché si fosse messo in ascolto solo ora, e che Tesla ha superato in capitalizzazione General Motors. Qualcuno ha ricordato come Tiscali superò Fiat nel 2000 in termini di capitalizzazione e dicono è una bolla. Un altro ascoltatore dice: ma come si fa a comparare le patate col ferro? Tiscali vendeva servizi tecnologici e Elon Musk, ossia Tesla, ha delle fabbriche. In parte è vero anche oggi che abbiamo pezzi di valore enormi dell'economia mondiale concentrati in aziende che si occupano esclusivamente di software e servizi collegati. Pensi solamente a Google e Facebook, che sono senza dubbio le multinazionali più importanti del pianeta anche per il controllo delle informazioni che hanno. Cioè gli asset non sono più solamente quelli fisici, ma gli asset iniziano ad essere anche i dati, tanto per fare un esempio. Sarebbe da fare una lunga trasmissione su questo. E l'asset di Uber è esattamente un'applicazione che mette in contatto clienti e autisti di noleggio con conducente. È arrivata questa sentenza dal Tribunale di Roma che di fatto impone ad Uber, che naturalmente farà ricorso, impone ad Uber di spegnere tutto entro 10 giorni. Torno a salutare Loreno Bittarelli, gli chiedo scusa per l'attesa, presidente di URI, l'Unione Italiana Radio Taxi, che è appunto la principale organizzazione del settore. Di nuovo buonasera Bittarelli. Allora, ovviamente grande soddisfazione da parte vostra per questa sentenza, una sentenza nella quale il giudice dice che le norme che ci sono attualmente non limitano la concorrenza, Uber viola queste norme, che è un po' quello che voi vi volevate sentir dire. L'impressione che si continua ad avere è quella di una forte resistenza al cambiamento, tanto dalla vostra categoria quanto dal paese. Ma buonasera a tutti, innanzitutto cioè va chiarito, secondo me, perché c'è una grossa strumentalizzazione su questo tema dell'innovazione. La categoria dei tassisti non è mai stata contraria all'innovazione e questo lo dimostra il fatto che anche loro hanno una propria app, anzi più di una app, la prima, la più importante è IT Taxi, si chiama, che è stata pubblicata nel maggio 2012, circa un anno prima dell'avvento di Uber. La nostra compagnia, la nostra associazione è stata la prima a lanciare i taxi elettrici in Italia, ce ne sono già diversi in circolazione, è fondatrice del Taxi for Smart City, tra i soci fondatori che hanno partecipato. Beh, c'è anche, per esempio, c'è anche MyTaxi che però mi sembra non vi piaccia tanto. O sì? No, a noi ci piacciono tutte le innovazioni, quindi sì alle innovazioni, ma purché queste vengano attuate nel rispetto delle regole. Sì. E si possono anche migliorare se necessario, ci mancherebbe, ma però si devono rispettare e soprattutto devono essere uguali per tutti se vogliamo assicurare una leale concorrenza tra i vari operatori e una trasparenza, sicurezza per gli utenti che utilizzano il nostro servizio, che attenzione, qui stiamo parlando di un servizio pubblico e come tale deve dare tutta una serie di garanzie agli utenti e agli operatori che in qualche maniera lo svolgono, lo effettuano. E questo Uber fino a oggi non lo ha fatto, tant'è che già il Tribunale di Milano circa un anno e mezzo fa aveva sentenziato che Uber non rispettava le regole, no? Era Uber Pop, se non erro, no? L'altro Uber Pop esatto, ma anche Uber Black, ci fu una multa che fu elevata a un conducente di Uber che chiaramente ha fatto ricorso Uber su questa multa e il Tribunale di Milano si costituì a difesa del Ghisa, come si chiama, sì, a Milano, del Pizzardone che aveva elevato questa contravenzione. Il Tribunale di Milano ha sentenziato che Uber, così come opera in Italia, è illegittimo perché viola le regole che diciamo sono previste per il settore. Quindi il Tribunale di Roma non poteva che fare altro che confermare tale sentenza e noi ne siamo lieti di apprendere questa notizia. Sorprende in tutto questo sinceramente l'atteggiamento di alcuni esponenti politici e anche di alcune associazioni di consumatori che dovrebbero tutelare. Mi scusi però Pittarelli, i consumatori, le associazioni di consumatori tutelano quella che ritengono essere una libertà di scelta, cioè è aperto il mercato più ne guadagno io come consumatore, poi voglio dire la cosa può essere un problema per voi e io questo lo capisco perché c'è gente che sta ancora pagando i mutui per le licenze a caro prezzo, per carità, però lei capisce, no? Lei capisce dal punto di vista del consumatore, per me avere una scelta di mobilità all'interno di una città che varia dal car sharing al taxi passando per Uber è una cosa fondamentale, no? Ma come si fa a tutelare chi opera violando le regole? Come si fa a tutelare chi applica il 20% in più sul costo effettivo della corsa rispetto a quello che viene pagato al conducente? L'associazione dei consumatori si dovrebbe ribellare semmai a tutto questo, perché l'intermediario che applica una parcella comunque sul costo della corsa va a carico del consumatore, non è il consumatore che lo paga. Sì, di però lo sceglie. Mi scusi, saprò io come voglio spendere i miei soldi. Questa è la risposta che si può dare. Cioè, se io voglio prendere un'auto nera, un po' più elegante di un taxi, eccetera, eccetera, e prenderla con quella modalità, ho la scelta, vivo in una città e lo posso fare. E se voglio spendere di più, spendo di più e pazienza. Ma per l'amore del cielo, ben venga tutto quanto, però addirittura prendere la difesa di chi fa spendere di più e attaccare invece chi fa spendere il giusto facendolo passare per il servizio più caro, perché spesso si dice che i taxi sono più cari, Uber è più economico, è tutto l'opposto, mi sembra una cosa assurda, come mi sembra assurdo prendere le parti di chi applica una tariffa secondo della necessità del momento, è come se i taxi, ammesso che potessero farlo, nei momenti in cui piove o c'è uno sciopero, si blocca la metropolitana, costassero il 300 e il 400% in più. Io credo che se fossi rappresentante dell'associazione dei consumatori pretenderei per i miei associati di avere una certezza sul prezzo di quello che deve pagare per un determinato tragitto, perché se è un servizio pubblico è giusto che sia trasparente e soprattutto che sia a conoscenza chi lo utilizza di quello che... Sì, fa notare un ascoltatore un po' quello, mi scusi Bittarelli, quello che dicevo io. Nessuno dice che Uber sia un servizio più economico, è semplicemente che in certi casi, non sempre per carità, ci sono dei taxi meravigliosi, è un servizio migliore. Ma cioè, io, qualitativamente io proprio, non è che non è un giudizio, no? No, ma potremmo aprire una discussione anche su questo, ma vorrei evitarla. Io vorrei insistere invece sul fatto che se è nata tutta questa discussione fra Uber e la categoria di tassisti e quant'altro, è semplicemente perché Uber non ha rispettato le regole del settore, perché se Uber avesse voluto gestire le richieste degli utenti che vogliono la limousine, che vogliono il servizio del noleggio conducente, l'avrebbe potuto fare liberamente, purché avesse rispettato le regole che prevedono che il servizio del noleggio conducente deve stazionare presso la propria rimessa, altrimenti fa il servizio pubblico da piazza. Uber ha utilizzato i noleggi per fare il servizio del taxi. E non si può fare questo, perché il noleggio c'ha tutta una serie di... Quindi è una questione puramente formale, mi sembra, Bittarelli, no? Sì, quindi, perché noi non siamo contrari se Uber... Ultima domanda che le faccio, Bittarelli, quando avete fatto lo sciopero, la piazza, eccetera, eccetera, quelli di Uber vi hanno detto, incontriamoci, ci vediamo... Vi aspetto, parliamo di come si possono cambiare le regole. Perché non si è presentata nemmeno un'organizzazione di tassisti? Ma io posso rispondere per la mia organizzazione e dico che innanzitutto noi non abbiamo partecipato allo sciopero, anzi abbiamo invitato i tassisti. Sì, me lo ricordo, questo me lo ricordo. Sì. Due, non abbiamo partecipato all'invito di Uber perché non riteniamo che non sia utile legittimare un operatore che vuole operare al di fuori delle regole che prevede il nostro Stato. Uber si metta in regola, rispetti le leggi e poi dopo nessuno dice che è indisponibile a confrontarsi sia nel mercato sia in un tavolo, però essersi tenuti con Uber voleva dire aver riconosciuto un ruolo ad Uber che non gli compete, tanto più che Uber rappresenta degli interessi privatissimi, non generali come dovrebbe fare L'ultimissima domanda e voglio solo un sì o un no. Le app che ci ha citato all'inizio, al di là di MyTaxi che già la conosciamo ed è una cosa diversa, prevedono il pagamento con carta di credito direttamente? Sì, assolutamente. Tutte? tutte le app? Tutte le vostre, tutte le vostre app. Addirittura anche con Bitcoin. Vabbè, grazie Lorenzo Bittarelli per essere stato con noi, buona giornata. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade, ci ritroviamo tra un attimo. Pantera di Infracom è il miglior ERP italiano? Mettici alla prova, pantera.it, col TH. Vi presenta Focus Economia. Oh, vedo parecchi messaggi sul tema, come era prevedibile, ma insomma, magari dopo ne leggerò qualcuno, però adesso in realtà vorrei andare ai mercati, mercati che fanno segnare una chiusura negativa, FTSE MIB meno 0,48%, FTSE All Share meno 0,4%, Parigi che chiude con un ribasso di mezzo punto percentuale, Francoforte meno 0,20%, Londra in calo dello 0,01%, ciao Conni, la Radio Corriere Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Che giornata è stata? Ma diciamo una giornata abbastanza fiacca oggi, comunque sulle borse diciamo che pesano ancora le tensioni geopolitiche legate a quanto è avvenuto in Siria, pesa anche l'attesa per le elezioni francesi. C'è stato da rilevare soprattutto il balzo del greggio legato anche soprattutto all'aumento delle tensioni geopolitiche, greggio che è ai massimi da un mese, che quindi ha avuto l'effetto di spingere in apertura, almeno in apertura Wall Street, anche perché adesso gli indici americani stanno via via ripiegando. Per le borse europee invece, come dicevo, una giornata tutto sommato fiacca, hanno chiuso tutte negative, depresse soprattutto dai titoli bancari e da quelli delle utility. Questo il quadro generale, dicevi vendita un po' sulle utilities e vendita appunto anche sulle banche in Italia, no? Sì, diciamo che le vendite su queste due categorie di titoli sono state un po' diffuse in tutta Europa, anche sulla borsa di Francoforte, RWE e E.ON, che sono due grosse utility, hanno pagato dazio, lo stesso per le banche. A Milano infatti tra le peggiori troviamo Mediobanca, che ha lasciato sul terreno il 2%, ma anche Unicredit l'1,2% e BIP per l'1,6%. C'è un motivo particolare per questo calo di CNH meno 1,75%? Ma non particolare, insomma oggi sono tutti titoli anche abbastanza ciclici, titoli industriali che data l'incertezza a livello globale oggi hanno un po' pagato dazio. Sì, ci dicevi appunto vendita anche sullo utilities, Enel cede l'1,05%, A2A cede lo 0,8%, male oggi anche Prismian che cede lo 0,97%, Moncler? Moncler invece continua la sua, diciamo, tra virgolette, insomma cavalcata, guadagna un altro 1,4%, il titolo aggiorna i massimi storici a 21,69 euro, e cresce comunque l'attesa per i conti del primo trimestre, che secondo le attese del mercato dovrebbero essere ancora molto buone, ancora con un fatturato in crescita. Oh, in questo quadro negativo abbiamo FinecoBank e Banca Generali invece che vanno bene, no? Sì, ci sono buone notizie sul fronte del risparmio gestito. Banca Generale aveva diffuso i dati sulla raccolta settimana scorsa. Per FinecoBank invece il dato è di oggi, c'è una raccolta netta che a marzo ha raggiunto quota 657 milioni, più 57% a livello annuo, quindi insomma un dato importante che testimonia comunque lo stato di buona salute del settore, il fatto che ci sia comunque molta liquidità che gira sui mercati. Fincantieri? Fincantieri invece ha consolidato, come insomma sono notizie già dei giorni scorsi, la posizione in STX France. Come sapevamo, sostanzialmente lì Fincantieri aveva acquisito il controllo del gruppo, però l'azionista diciamo di minoranza era lo Stato francese, che sostanzialmente faceva valere la sua golden share, quindi la gestione della società era totalmente imballata, se così si può dire. Invece negli ultimi giorni è stato trovato un accordo sulla governance, e quindi è chiaro che questo adesso diventa un investimento industriale che Fincantieri sì. potrà far fruttare. Grazie, ciao Conni, Radio Corriere Sole 24 Ore, per questo aggiornamento di mercati. Dopo parleremo anche di Avio, che è andata molto bene nel giorno del debutto, lo faremo con l'amministratore delegato, e poi ci occuperemo della giustizia italiana lentissima, come certifica anche l'Europa, tra poco. Il segnale orario vi è offerto da Trento Doc, bollicine di montagna dal Trentino, a Vinitaly Padiglione 3, trentodoc.com. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. E sì, li leggiamo, lo dico all'ascoltatore o ascoltatrice, li leggiamo anche se non vede la doppia spunta blu, ma la spunta grigia, perché abbiamo la lista e quindi li vediamo, insomma. Cioè non è che li apriamo tutti quanti, alcuni, soprattutto quelli più brevi, li vediamo molto rapidamente qua dalla schermata e via così. Qualcuno chiede di togliere la base afghana, così la definisce. Barbara Bianchi all'altra parte del vetro non è per nulla d'accordo, ma va bene così. Molti messaggi sul tema di Uber, il tema che abbiamo trattato all'inizio, sul tema di Uber e dei taxi. Anche Domenico, tassista da Roma, continua a scriverci a proposito dei prezzi, ma non stiamo parlando dei prezzi, stiamo parlando più in generale di apertura del mercato e delle varie possibilità che possono essere offerte ad un consumatore di utilizzare mezzi di trasporto diversi. Di certo qua le regole andranno riviste, qua qualcuno ci fa notare, abbiamo parlato poco fa di Tesla, che adesso... A breve dovrebbero arrivare anche sul mercato, in tempi relativamente brevi, le auto autonome. Stiamo qua, insomma, a raccontarcela ancora con le telefonate ai centralini per avere un taxi. Con tutto il rispetto, per carità. Va bene, va bene. Parliamo di innovazione tecnologica, in questo caso italiana, in questo caso prettamente industriale, perché oggi ha debuttato a Piazza Affari Avio sul segmento Star, che è quello dedicato alle medie imprese, con una capitalizzazione tra i 40 milioni e il miliardo di euro, che si impegnano a rispettare alcuni requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, governance, ossia governo dell'impresa, e liquidità. 72esima società a quotarsi sul segmento Star, con un ottimo successo nella giornata di oggi, cioè meglio, al mercato è piaciuta la cosa. Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei. Allora, la brutalizzo per far capire agli ascoltatori. Voi fate le cose che consentono ai razzi che portano poi i satelliti in orbita di decollare, no? È giusto. Molto. Progettiamo e realizziamo lanciatori spaziali, che sono un modo più complicato per spiegare che cos'è un razzo che porta un satellite nello spazio. Ok, perfetto. Vi occupate di lanciatori spaziali. Un 30% circa investito in ricerca e sviluppo, come è normale, no? In un'azienda del vostro tipo, no? Sì, perché c'è bisogno di molta innovazione tecnologica continuamente per realizzare nuovi prodotti e dare un'offerta sempre più sofisticata ai nostri clienti. Un flottante superiore al 60%, Leonardo Finmeccanica intorno al 60%, Leonardo Finmeccanica che è al 28% della società, il management che ha il 3,85%. La scelta di quotarsi da cosa nasce? La scelta di quotarsi nasce dal fatto che il mercato sta diventando sempre più competitivo. C'è una domanda in crescita, ci sono molti nuovi player, quindi c'è la necessità di accedere a risorse finanziarie nuove per accelerare gli investimenti e portare nuovi prodotti sul mercato per meglio competere. E quindi con questo formato sostanzialmente di una public company a flottante elevato abbiamo la possibilità di essere molto più dinamici ed efficaci sul mercato. Senta Ranzo, è un mercato piccolo in termini, come dire, di operatori che ci sono dentro, no? E di paesi che ci sono dentro, è però un mercato estremamente concorrenziale. Sì, è così, perché in realtà questo segmento di mercato è una leva che abilita la possibilità di mercati molto più grandi. Lei pensi che il mercato del lancio nello spazio vale solo 5 miliardi di euro in tutto il mondo, ma abilita il mercato dei servizi satellitari che ne vale 120 miliardi. Quindi è chiaro che per fare dei servizi nello spazio è necessario arrivarci, e dunque il trasporto nello spazio è una tecnologia abilitante. Una tecnologia che hanno pochi paesi al mondo: Francia, Italia, Russia, Stati Uniti, Giappone, India. Dice qualcuno che qua gli indiani stanno entrando pesantemente nel mercato. Vorrei capire se da questo punto di vista avete qualche forma di preoccupazione, nel senso, stanno facendo una concorrenza potente anche sul prezzo. Ma sicuramente sono molto competitivi, lo sono diventati in anni recenti, come in tutti i mercati ci sono dei player come questi che si differenziano per essere particolarmente competitivi sul prezzo. Noi invece abbiamo dalla parte nostra una grandissima affidabilità, siamo quelli che fanno i razzi con la maggiore affidabilità al mondo, cioè il minor numero di insuccessi, che per un cliente finale è un parametro importante tanto quanto lo è il prezzo. Certamente, allora c'è il lanciatore spaziale Vega e poi ci sono una serie dei lanciatori spaziali Ariane ai quali siamo abituati perché ne abbiamo parlato, no? Perché sono quelli dell'Agenzia Spaziale Europea sostanzialmente, no? Sì, sostanzialmente tutti questi in Europa, tutti questi programmi sono promossi dall'Agenzia Spaziale Europea, consorziando fra loro una serie di imprese nei vari stati membri dell'Unione. Noi partecipiamo a questo consorzio ormai da diversi decenni. Siamo prime contractor di Vega, che è il lanciatore più piccolo dedicato a satelliti più piccole dimensioni, e siamo partner anche del programma Ariane, che invece è un lanciatore grande che porta i satelliti ben più grandi per le telecomunicazioni. Senta Ranzo, c'è una curiosità che forse è una curiosità che hanno tutti, sicuramente ce l'ho io, devo dire la verità, e riguarda l'arrivo sul mercato dello spazio dei privati, no? Molto abbiamo raccontato, poi oggi è una giornata nella quale si parla parecchio di Tesla perché, come abbiamo raccontato in apertura, ha superato per capitalizzazione General Motors, chissà se è un eccesso oppure no, questo lo vedremo sicuramente nei prossimi anni, però come gli ascoltatori sanno, Elon Musk ha anche fondato una sua compagnia spaziale che è SpaceX, c'è anche quella fondata da Jeff Bezos, il padrone di Amazon, il creatore, il fondatore di Amazon. Vorrei capire se questo può rappresentare un fronte di preoccupazione, cioè l'arrivo sul mercato di aziende di questo tipo che rappresentano un'apertura alla quale per certi versi nessuno di noi era abituato, no Ranzo? Sì, no, tutt'altro, più che una preoccupazione rappresenta uno stimolo. Perché questo settore è stato per decenni dominato dal solo finanziamento pubblico. Grazie a questi imprenditori ha conosciuto una nuova stagione, quella del finanziamento diretto attraverso degli imprenditori o attraverso i fondi di venture capital. Da oggi noi abbiamo aperto una nuova stagione, quella per cui le aziende cominciano a approvvigionarsi di capitali ovviamente dal mercato dei capitali, che credo sia una trasformazione naturale delle imprese. E quindi io credo che non saremo gli ultimi a quotarci sul mercato e a cominciare a costituire un mercato competitivo come ce ne sono molti altri. Il vostro mercato è prevalentemente civile? Il nostro mercato è prevalentemente civile, è caratterizzato da una parte più istituzionale a favore di clienti, quindi che rappresentano governi di vari paesi, che contano per circa un terzo delle nostre attività, e poi da clienti anche commerciali, che rappresentano invece più di due terzi del nostro mercato, in giro per tutto il mondo. Quindi abbiamo, direi, una quota prevalente di attività di export verso clienti commerciali e in quota minore verso clienti domestici istituzionali. Sì, c'è una quota difesa anche? Le attività di difesa nostre sono molto limitate, rappresentano meno del 4% del nostro fatturato. La ringrazio, grazie a Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio, per essere stato con noi. Le auguro una buona giornata e un buon lavoro, una giornata ovviamente positiva per voi. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi ci spostiamo dallo spazio alle strade e poi andremo a parlare di giustizia italiana. Abbiamo parlato sempre, molto spesso, come elemento che tende a rallentare gli investimenti in Italia. E tra i nostri ascoltatori ci sono molti imprenditori che sanno benissimo quanta sofferenza gli crei la giustizia civile. Oggi c'è un rapporto che attesta la nostra posizione in Europa almeno all'anno 2015, che è quartultimi per lunghezza dei processi civili, e dati molto pesanti come media anche per quanto riguarda la giustizia amministrativa. Cose che sapevamo presumibilmente, ma è una buona occasione per tornare a rifletterci su. Focus Economia. Ed eccoci, eccoci di nuovo, dunque, per parlare di una giustizia lenta, mentre continuano ad arrivare SMS sul tema Uber e taxi che abbiamo trattato prima. Qualcuno ci scrive: è chiaro, ormai siete talebanizzati. Non so che cosa voglia dire, non so se si riferisca esattamente a questo o forse alla base afghana. C'è chi sottolinea ancora sul tema di Uber il dove paga le tasse. Questo è il grande tema che rimane sotto traccia per quanto riguarda tutte queste vicende, tanto quella di Uber quanto anche gli altri grandi colossi della tecnologia. Su tutti mi viene in mente Apple. Ci sarà modo di tornarci, perché poi appunto Uber presenterà ricorso e vedremo come andrà questo ricorso. Giovanni Negri del Sole 24 Ore, ciao, buonasera. Buonasera a te e a tutti gli ascoltatori. Allora, il dato: l'Italia quarta nell'Unione Europea, quart'ultima, pardon, per durata dei procedimenti civili, commerciali e amministrativi. Sono 393 giorni, cioè, oh no, meglio, scusate, è vero, è quarta per durata, per quanto sono lunghi. 393 giorni in media nel 2015 contro i 395 registrati nel 2010, che vuol dire che tra il 2010 e il 2015 praticamente non è cambiato niente o quasi niente. Fanno peggio solo Cipro, Portogallo e Malta. Per le cause amministrative il tempo necessario sale a 1.008 giorni di media, un tempo pazzesco, Giovanni. Vabbè, i dati mi sembra che parlino più o meno da soli, no? Sì, diciamo che i dati sono eloquenti, segnalano quello, corroborano coi numeri il luogo comune della eccessiva durata dei procedimenti, soprattutto civili. In questo caso ci si mettono in mezzo anche quelli amministrativi nel nostro paese. Una situazione che ha radici antiche per certi versi, che sta lentamente, ma molto lentamente, non tanto quanto forse si aspetterebbero i cittadini, e tra questi naturalmente anche gli imprenditori, si aspetterebbero. Quindi sono dati che fotografano una situazione di crisi profonda, alla quale, insomma, diciamo, negli ultimi anni soprattutto i diversi esecutivi che si sono succeduti nel corso del tempo, almeno sul versante della giustizia civile, quello magari un po' meno sensibile alle polemiche politiche, hanno cercato di mettere mano. Evidentemente senza riuscirci un gran che bene. Senza riuscirci un gran che bene, introducendo alcune particolarità che forse ancora devono dispiegare tutte le loro potenzialità e che pure in questo rapporto europeo ci vengono riconosciute come una forte accelerazione sul versante della digitalizzazione della giustizia, in particolare della giustizia civile. Vorrei dire una cosa per una corretta lettura di questi dati. Ci mettono in una posizione assai critica, come ricordavi introducendo il tema, devo dire in larga parte, non solo naturalmente, ma in una buona parte a causa della giustizia amministrativa. Lì sì, i processi durano più di 1.000 giorni, se si fa la media poi con la giustizia civile si arriva a quella durata lì. La giustizia civile, stralciando quella amministrativa, sta lentamente migliorando, molto lentamente, l'ho detto, però alcuni segnali positivi ci sono. Quella amministrativa molto meno. Dove sono i colli di bottiglia? Io ricordo che ci siamo occupati in altre trasmissioni e parlando di altre cose, in particolare della giustizia penale, ci veniva detto che il collo di bottiglia in questo momento è l'appello, no? È il vero problema. Nella giustizia civile dove si annida il collo di bottiglia? Già all'inizio lo troviamo o lo troviamo in secondo grado? Io direi né nell'uno né nell'altro, lo troviamo soprattutto in Cassazione, nella giustizia civile, cioè nel giudizio, si dice, direbbe il giurista, di legittimità, cioè il terzo grado, perché lì ci sono 106.000 cause pendenti, una stragrande maggioranza delle quali sono controversie di natura tributaria, quindi il fisco pesa tantissimo nel determinare l'arretrato, e l'arretrato naturalmente pesa tantissimo nell'appesantire i tempi di decisione delle controversie, e si concentra, devo dire, in questa fase storica, diciamo così, soprattutto in Cassazione. il tappo è là. C'è qualcuno che ha in mente qualcosa per modificare questa situazione? Ci sono alcune misure allo studio, sia di natura organizzativa sia di natura normativa. Quelle organizzative, facendo riferimento proprio a questo tema della Cassazione, diciamo che si è affacciata alcune volte la possibilità normativa di introdurre ad esempio una task force di giudici presi dai consiglieri in pensione della Cassazione da tornare a collocare nella Cassazione stessa per affrontare proprio il contenzioso di natura fiscale, quindi quello che pesa di più, dedicargli dei magistrati ad hoc con l'obiettivo di smaltire in un arco di tempo abbastanza limitato, pochi anni, tutto quello stock di controversie arretrate che rappresenta il vero debito pubblico della giustizia italiana, forse della Cassazione senz'altro. Normative in discussione in questo scorcio di legislatura, non è detto che non rappresenti una priorità per quanto riguarda l'azione di governo. C'è una riforma del codice di procedura civile e una riscrittura complessiva di tutta la legge fallimentare, di tutta la legislazione sulla crisi di impresa. Questi sarebbero elementi importanti magari da portare a casa in questi pochi mesi che rimangono da qui alla fine della legislatura per fare un piccolo salto di qualità. Che sarebbe una vera riforma epocale nel nostro paese. Allora, forse gli aggettivi è meglio non sprecarli troppo. Diciamo che potrebbe essere un intervento utile, credo, soprattutto su alcuni versanti. Un intervento taumaturgico vero sarebbe soprattutto sul piano organizzativo, devo dire, più che su quello normativo. Servirebbero un po' più forse magistrati, credo che quel rapporto segnali tra le altre cose anche un numero tutto sommato non elevatissimo dei magistrati italiani in rapporto agli abitanti, ma soprattutto sul versante del personale amministrativo che deve coadiuvare tutta l'azione di amministrazione della giustizia e renderla poi concreta ed effettiva, e sul quale ahimè da parecchio tempo a questa parte, per le ovvie ragioni di spending review, di mancati investimenti, ecco, non è stato fatto molto. Proprio sotto questo aspetto, Gianni, una tua valutazione sulla quale, devo dire la verità, probabilmente è difficile avere numeri, ma proprio in termini di analisi. In questi anni abbiamo visto molti esempi di tribunali che, condotti in un certo modo, sono riusciti a smaltire l'arretrato anche in maniera piuttosto forte. E c'è un problema di capacità e di formazione di chi arriva a capo dei tribunali nel saper condurre l'ufficio giudiziario nella maniera corretta, nella maniera giusta, nella maniera soprattutto più efficiente? Senz'altro sì, e anche in questo caso devo dire i dati lo corroborano. Se qualcuno vorrà avere la pazienza di collegarsi al sito del Ministero della Giustizia, troverà delle statistiche abbastanza interessanti sulle performance dei diversi tribunali, dalle quali sottolineo solo un elemento: non sempre è vero quello che ho detto prima, e quindi mi smentisco per certi versi da soli, cioè non è vero per forza che un tribunale inefficiente è un tribunale dove manca personale amministrativo. Purtroppo performance assolutamente negative sono state determinate negli anni anche in tribunali a pieno organico. Questo cosa vuol dire? Mi riallaccio evidentemente alla domanda. Vuol dire che è la guida che da questo punto di vista è stata carente, vuol dire che il capo di quell'ufficio giudiziario non è stato in grado di far fruttare al meglio delle risorse, almeno sul piano umano, che c'erano. Non c'erano carenze in quel tribunale dal punto di vista del personale, e togato e non togato. Sono stati risultati invece a mancare. E anche in questo caso, evidentemente, appunto, poi si è andato ad accumulare l'arretrato. Io ti ringrazio. Grazie a Giovanni Negri del Sole 24 Ore per essere stato con noi, averci aiutato a commentare questi dati. Poi qualcuno dice qua, giustamente, magari semplificare le leggi, le norme tributarie aiuterebbe a diminuire i contenziosi. Sì, siamo perfettamente d'accordo. Poi però, insomma, c'è anche da gestire i contenziosi che già ci sono. Come ha sentito, ci sono in arretrato 106.000 cause in Cassazione, di cui gran parte tributaria. Allora grazie a Valeria Bernardi e Filippo Aureggio, che si sono alternati in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e redazione. Grazie a tutti voi per l'ascolto. La trasmissione torna domani alle 17, dopo il giro delle 17, con Sebastiano Barisoni, e noi ci risentiamo come sempre alle 13 con Effetto Giorno. Una buona serata da Simone Spezia. Radio 24, libera la voglia di fare.